Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Nessuna costituzione, formale o materiale, prescrive che il ministro dell'economia e il governatore della Banca d'Italia siano amiconi, che giochino a tennis o che vadano in vacanza assieme. Tuttavia, la freddezza che Giulio Tremonti e Mario Draghi ostentano nei loro rapporti non giova alla gestione della politica economica in un momento che più difficile di così non potrebbe essere. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi stamane Carmelo Lauricella. E io vi ho voluto iniziare la rassegna stampa con il Sole 24 Ore, con Orazio Carabini, che è l'autore di questo servizio, che mette in evidenza una cosa che non avevo visto da altre parti sui quotidiani nei giorni scorsi. Mette in evidenza qualche tensione tra due personalità di grande rilievo dell'economia e della politica italiana, come Giulio Tremonti, ministro appunto dell'economia, e Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia. Quindi andiamo a vedere cosa dice, cosa scrive Orazio Carabini. Tremonti e Draghi sono due pezzi da 90 e come tali sono poco disponibili a dividere con altri le luci della ribalta. Il ministro dell'economia ha un bagaglio di idee che hanno fatto molto discutere, non solo in Italia ma anche in Europa. Il governatore non è un banchiere centrale qualunque, è conosciuto e stimato in tutto il mondo. Negli ambienti della finanza poche persone non americane hanno un prestigio paragonabile a quello di cui gode Draghi negli Stati Uniti. La sua nomina alla guida del Financial Stability Forum è il coronamento di una carriera che molto probabilmente non finirà alla Banca d'Italia. Ecco, scrive Carabini, insomma ci sono tante ragioni poi di attrito, ci sono opinioni diverse, e poi Draghi è un economista e fatica a intenderci con Tremonti, che economista non è e che anzi invita gli economisti a tacere. Insomma, i motivi di attrito non mancano, scrive Orazio Carabini. Tuttavia le tensioni non vanno drammatizzate, anche perché il ricordo degli scontri tra Tremonti e Fazio è ancora vivo nella memoria, e quello che succede oggi non è paragonabile ai tristi episodi di allora. E il contrasto tra due personalità forti, naturalmente portate ad avere grandi aspirazioni per il futuro. Adesso però è arrivato il momento di una tregua, scrive Orazio Carabini su Sole 24 Ore, cioè una tregua tra quelle tensioni che lui sottolinea tra Giulio Tremonti e Mario Draghi, perché c'è un nemico comune da battere, si chiama recessione. Questo sul il Sole 24 Ore, che titola l'IRAP diventa deducibile, quindi una buona notizia per le imprese, sconto del 10-15% verso la Robin Tax per i gestori di telefonini. Sul Sole 24 Ore di stamane abbiamo anche, tra le altre cose, notizia invece non buona per niente dagli Stati Uniti, avete già sentito dai GR, USA in deflazione, Wall Street cade del 6%, ai minimi da 5 anni. E poi offshore hedge fund, troppe ambiguità, paradisi fiscali semi dimenticati, ed è Alessandro Merli che firma questo commento a partire dal G20, ed è proprio Alessandro Merli che sarà ospite a Dietro la Notizia stamane alle 8.30, la trasmissione condotta dal direttore Gianfranco Fabi. Quindi sentiremo i suoi commenti su crisi, offshore, hedge fund e tutto ciò che ci sta attorno. Ecco, questo il Sole 24 Ore, ma per rimanere in tema di crisi, la stampa si occupa della crisi delle crisi, e cioè dell'industria dell'auto, ed è Giuseppe Berta, conoscitore del settore automobilistico, che scrive sulla stampa: nessun settore industriale è colpito dalla crisi globale come l'industria dell'automobile. Lo testimonia la caduta della domanda, che procede a un passo impressionante, come dimostrano le cifre che giungono dall'America, cui tengono ora dietro anche quelle dell'Europa. È negli Stati Uniti, tuttavia, che la crisi sfida le possibilità di sopravvivenza delle imprese un tempo considerate l'emblema sistema stesso dell'industrialismo. Questo scrive Giuseppe Berta sul quotidiano La Stampa. 10 anni fa era impossibile prevedere che i grandi gruppi di Detroit potessero andare incontro all'eventualità di un collasso finale, addirittura. Più di tutto colpisce il tracollo della General Motors, l'impresa tipo del Novecento, quella che Peter Drucker aveva indicato fin dagli anni 40 come il modello stesso della grande corporation. Ecco, da questa diagnosi sembrerebbe diciamo uno sviluppo negativo. Invece Giuseppe Berta dice sì, però non bisogna fare degli errori, non bisogna dallo scenario apocalittico che abbiamo di fronte, non bisogna fare degli errori. Uno degli errori è di trarre dalla situazione attuale un presagio infausto per l'industria dell'auto, come se ciò che avviene in America potesse infliggere un colpo fatale alla vitalità del settore. E invece non è così, dice, lo conferma anche l'Economist. Nei prossimi 4 decenni le previsioni dicono che il numero delle auto in circolazione nel mondo salirà dagli attuali 700 milioni sino a circa 3 miliardi. E poi ancora si pensa ovviamente ai grandi paesi, Brasile, Russia, India, Cina, e quindi per le case produttrici si aprirà quindi un'opportunità di crescita senza precedenti, almeno per quelle di loro che riusciranno a superare la crisi globale. Proprio per questo occorre che la partita non sia impari e che a tutti i produttori siano garantite le stesse opportunità e condizioni. E infatti lo vedremo dopo le anticipazioni sul GR, è proprio Sergio Marchionne che dice sul Corriere della Sera e su altri quotidiani a proposito della crisi dell'auto: aiuti a tutti o a nessuno, se no si creano disparità sul mercato. Servo negro, Al-Zawahiri insulta Obama, messaggio su internet, è al servizio di Israele. Avete già sentito dai TG e dai GR questo attacco di Al Qaeda al neo presidente degli Stati Uniti. La Stampa, come altri giornali, oltre a portare la cronaca, va a, come dire, a inzigare un po' Maurizio Gasparri. Perché? Perché Maurizio Gasparri aveva detto prima delle elezioni che, insomma, se avesse vinto Obama, Al Qaeda sarebbe stata contenta. E allora Guido Ruotolo un po' lo provoca. Senatore Maurizio Gasparri, è pentito di aver detto che Al Qaeda è più contenta con Obama alla Casa Bianca? Forse è vero, la mia è stata un'espressione infelice. Ho sbagliato a dire quella frase in quei termini. Ci mancherebbe che il presidente della più grande democrazia occidentale facesse l'occhiolino ai terroristi. E le prime dichiarazioni di Barack Obama, molto dure nei confronti dell'Iran, sono una conferma che gli Stati Uniti guidano la guerra al terrorismo. Il numero 2 di Al Qaeda, il medico egiziano Al-Zawahiri, bolla così il nuovo inquilino della Casa Bianca: Obama, negro filo israeliano, va al merito di un leader occidentale essere minacciato dai terroristi. Questo Maurizio Gasparri sulla Stampa. Il quotidiano della Stampa, però, con la firma di Mattia Feltri, diciamo, fa un articolo che ironizza un po' sui magistrati e sull'ultima loro iniziativa, e anche la scrittura, diciamo, è efficace. Se stamattina, transitando a Roma per via del plebiscito o nelle immagini di un TG straordinario vedete Palazzo Grazioli circondato, sappiate che gli assedianti sono caschi blu. Il loro obiettivo è il grande dittatore, l'ultimo genocida, il macellaio della Brianza, Silvio Berlusconi. Più avanti comparirà ammanettato alla sbarra dell'AIA, forse finalmente con la barba lunga e grigia e qualche certezza incrinata sulla sua longevità. E se alla lettura di queste poche righe gli occhi vi si sono sbarrati e la bocca spalancata, scrive Mattia Feltri sulla Stampa, considerate che si tratta della medesima reazione ieri sera di qualche esponente della maggioranza di governo alla lettura dei dispacci di agenzia, che dicevano che l'Associazione Nazionale dei Magistrati, sindacato del potere giudicante per mano del presidente Luca Palamara e del segretario Giuseppe Cascini, ha chiesto l'intervento dell'ONU per avere protezione dai soprusi del presidente del Consiglio. Non trattandosi di cinematografia, ci sarà preclusa la scena immortale di Palamara e Cascini che stendono la missiva di raccomandazione al rappresentante delle Nazioni Unite, il relatore speciale per i diritti umani, Lindro Despov, come fosse il Savonarola. Negli ultimi mesi in Italia si sono riproposti in diverse occasioni duri attacchi. Insomma, Mattia Feltri ovviamente ironizza e non poco su questa iniziativa della magistratura, dell'Associazione Nazionale Magistrati, di rivolgersi all'ONU per chiedere protezione da Silvio Berlusconi. Questo La Stampa, vi dicevo. Tornando a quello che citavo prima, il Corriere della Sera invece dà molto spazio intanto alle parole di Sergio Marchion, amministratore delegato di Fiat. Abbiamo già parlato della crisi dell'auto e Massimo Gaggi dagli Stati Uniti ci spiega il calvario di Detroit e l'ira del Congresso. Alzi la mano chi è venuto a Washington con un volo di linea. Nessuno. Ma siete pronti almeno a vendere i jet privati delle vostre aziende disastrate? No. E io dovrei dire ai miei elettori che vi sovvenzioneremo con i loro soldi? Nel giorno del nuovo crollo di Wall Street, con l'indice Dow sotto gli 8.000 punti, al Congresso si consuma il massacro dei capi di GM, Ford e Chrysler. Ecco questo Massimo Gaggi dagli Stati Uniti. Ma dicevo Marchionne, che invece l'affondo di Marchionne, gli aiuti all'auto a tutti o a nessuno, a tutti o a nessuno. Questa volta l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, alza la voce. Lui, che per primo aveva proposto nell'ambito dell'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, di chiedere 40 miliardi di euro alla UE per l'industria dell'auto, non tollera che un singolo paese faccia da solo. Così, a margine di un incontro con il rappresentante dello Stato brasiliano di Minas Gerais, ha manifestato la sua contrarietà a possibili iniziative isolate, perché, dice Marchionne, appunto ci sarebbe un trattamento diseguale sul mercato che potrebbe portare anche a squilibri molto pesanti. Questo sul Corriere della Sera. Il Corriere riporta anche una notizia interessante: la Michelin cancella Gualtiero Marchesi. Lo chef italiano è una vendetta per le mie critiche, disse lo scorso giugno: restituisco le mie stelle Michelin. E nella guida 2009 il locale di Gualtiero Marchesi figurerà solo come il ristorante della locanda L'Alberetta, relegato insomma a ristorante d'albergo. Hanno voluto ribattere a una mia decisione di non accettare più punteggi ma soltanto commenti, dice Marchesi. Questo comunque è la notizia che riporta il Corriere della Sera. Tornando alle minacce di Al Qaeda, La Repubblica, il quotidiano La Repubblica, affida a Renzo Guolo invece un commento: Malcolm X diventa un'arma. Al Qaeda avvia l'offensiva contro Obama, lo fa mettendo in circolazione nel web i consueti format che mescolano insieme nuovi audio e vecchie immagini, strumenti di propaganda non sempre tempestivi ma che evitano intercettazioni fatali e attacchi letali. Un commento di Renzo Guolo a proposito del piano di Barak per l'Afghanistan e che fa paura agli uomini di Bin Laden. Infatti, così conclude Renzo Guolo, sul piano strategico invece Azawiri stigmatizza l'intenzione di Obama di concentrare lo sforzo bellico in Afghanistan. Prospettiva che Azawiri ritiene votata al fallimento, ma che inquieta il vertice di Al Qaeda. In tal caso è a rischio non solo il possibile ritorno al potere dei talebani, ma la stessa sopravvivenza fisica della leadership storica dell'organizzazione sfuggita sin qui all'annientamento grazie alla desistenza irachena di Bush. Per Al Qaeda, Obama o Bush, l'America resta il nemico di sempre, un nemico da colpire ovunque in una guerra che non prevede esclusione di colpi. Il quotidiano della Repubblica riporta anche invece un commento, una riflessione di Giancarlo Bosetti. Perché il potere in Italia è nelle mani dei vecchi? Un ultra-ottantenne come soluzione sofferta ma infine accettata di un problema politico non è in Italia una novità. Sergio Zavoli, classe 1923, designato presidente della commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, non ha l'aria di un caso isolato. Presidenti della Repubblica e primi ministri, con un piccolo scarto di anni, anni sono in linea con la constatazione. Ciampi ha lasciato 86 anni, Napolitano ha iniziato a 81, Prodi ha lasciato a 69 e Berlusconi ha compiuto i 72. È ovvio che la qualità della prestazione non ha relazioni dirette con l'età, così come nulla c'è da eccepire sulle doti professionali dell'equilibrio del grande giornalista Zavoli, che andrà ora a occupare un ruolo che il suo peso spropositato nei riti della politica italiana. Il moto di scoramento è però difficile da trattenere di fronte all'evidenza di quel che è stato scritto in un celebre articolo di Gianluca Violante sul sito lavoce.info 2 anni fa, a proposito appunto dell'età dei nostri governanti e comunque dei poteri in Italia. Il quotidiano Il Giornale invece si occupa in prima pagina, in apertura, sorpresa, nel Partito Democratico tengono tutti famiglia, non solo Gorizia, anche a Caserta c'è la parentopoli dell'amministrazione di sinistra, figli, fratelli, cugini e nipoti assunti a tempo indeterminato in una città pubblica. Questo si deve. Poi c'è un'impressionante foto, devo dire, con su scritto chi se ne frega della crisi, Europarlamento deserto al dibattito. Ecco quanti europarlamentari erano presenti a Strasburgo durante il dibattito sulla crisi finanziaria e la recessione mondiale. Una donna, questa ha il posto numero 341, punto, poi tutto vuoto, a meno da questa foto. Ma la cosa interessante, sempre sulla prima pagina del giornale, riguarda un viaggio fatto dai giornalisti del giornale nel nord-est, emergenza nord-est, meno tasse o chiudiamo, l'allarme delle imprese, non c'è più lavoro, il ministro Frattini al giornale, immigrati, entrerà in Italia solo chi è utile. C'è crisi, c'è rabbia. Come l'araba fenice che risorge dalle sue ceneri, il nord-est è costretto a reinventarsi ancora una volta. Ha superato gli anni della svalutazione e della delocalizzazione. Ha lottato con la concorrenza cinese. Forse credeva che i peggiori effetti della globalizzazione fossero passati. Invece il crollo del sistema finanziario internazionale taglia le gambe al modello veneto, un modello fatto di miriadi di piccole e medie imprese che costituiscono la locomotiva d'Italia. E c'è una lunga... Stefano Filippi scrive una lunga inchiesta su questa cosa ed è molto interessante perché effettivamente il nord-est è parte integrante dell'economia e parte motore dell'economia italiana, quindi questo sul quotidiano Il Giornale. Diverso è l'apertura invece del Riformista, che pure apre sul Partito Democratico come Il Giornale, ma non per andare a indagare sulla parentopoli di sinistra, ma per invece mettere nero su bianco della guerra che è scoppiata nel Partito Democratico. Infatti è guerra nel Partito Democratico, questa è l'apertura del Riformista. La caduta di La Torre. Alta tensione sulla vicenda Rai, Veltroni ottiene dimissioni dalla commissione del colonnello D'Alemiano accusato per un pizzino, il famoso pizzino, insomma questa parola che è stata utilizzata e viene utilizzata anche oggi, archiviata la pratica vigilanza anche se mancano le dimissioni di Villari, dentro il Partito Democratico esplode il caso La Torre, smascherato dalla Sette mentre suggeriva all'esponente di AN Bocchino una risposta da dare al dipietrista Donati. Il senatore D'Alemiano viene invitato su indicazione del segretario a lasciare il suo posto a Zavoli in vigilanza. Tra smentite dei veltroniani e conferme dei dalemiani parte il conto alla rovescia verso il congresso del partito. Intanto scoppia un'altra grana al quartier generale del partito. I tesorieri DS Sposetti e DL Lusi attaccano il tesoriere del PD Agostini per la mancata assunzione di oltre 60 dipendenti. Insomma, la guerra sembra da questo servizio che la guerra del Partito Democratico si sia aperta in vista del congresso e su temi anche forti che riguardano poi la leadership, perché non dimentichiamo mai che La Torre è un dalemiano e Veltroni è irritatissimo per quello che è avvenuto in queste ore quando La Torre ha appunto suggerito a un avversario politico come comportarsi e una valutazione. Chi è Berlusconi? Corruttore o cucù? Questo è il titolo del quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, e oggi il quotidiano pubblica due punti di vista opposti, ovviamente. Uno è quello di Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, che scrive al quotidiano, e l'altro è quello di Marcello Veneziani, intellettuale dell'area di centrodestra, che invece replica poi a Giannini. Adesso è troppo lungo. Io vi voglio solo dire alcune cose che riguardano il contenuto di questi interventi. Caro Veneziani, scrive Massimo Giannini, criticare Silvio non è un reato. Caro direttore, approfitto della tua gentilezza per ringraziare Marcello Veneziani, che ha dedicato una pagina di Libero a me, al mio libro appena uscito, e a quelli che da sinistra hanno creato l'incubo Berlusca. Mi permetto tuttavia di fare qualche riflessione ulteriore e di sottoporre all'attenzione di Veneziani e dei tuoi lettori. Chi avesse la voglia e la pazienza di andare fino in fondo nella lettura del mio libro, intitolato Lo statista, che è ironico ma neanche poi tanto, scoprirebbe che io non sono certo tra coloro che considerano l'esistenza di Berlusconi di per sé un reato, come mi attribuisce Veneziani. E c'è una lunga riflessione di Massimo Giannini che chiarisce come non si vuole collocare tra quelli che parlano di regime e via dicendo, ma chiarito e premesso tutto questo, e ferme restando le enormi questioni irrisolte del conflitto di interessi e delle leggi ad persona, perché rifiutare in blocco la seconda metà del ragionamento che indica i problemi e la criticità di un potere sì democratico ma con un'inclinazione palesemente pubblicitaria e una vocazione tecnicamente totalitaria? Perché respingere tutto ciò? Questo dice Giannini, che in sostanza si accredita il diritto di poter criticare e anche aspramente Silvio Berlusconi. Marcello Veneziani dice, replica, sì, ma siete voi che lo dipingete come fuori legge. Caro Giannini, la tesi di fondo del tuo libro enfatizzata dal tuo giornale è Berlusconi totalitario, ed è una tesi, scusami, che mi pare totalmente infondata, e mi sorprende che a sostenerla sia una persona equilibrata e intelligente come te. Questo Marcello Veneziani. Ma il quotidiano Libero oggi propone invece un'inchiesta che ci riguarda da vicino, riguarda la stampa bellezza, riguarda i giornali, infatti. Inchiesta numero uno, la grande crisi dei giornali, a cominciare da Repubblica. In 18 anni, scrive Francesco Specchi, autore di questa inchiesta, i quotidiani hanno perso 3 milioni e mezzo di copie. Il gruppo L'Espresso studia tagli e si butta su internet. Il figlio di De Benedetti mugugna. E infatti qui vengono riportate delle cifre che sono un po' preoccupanti, in effetti. Ma i quotidiani come affrontano la tempesta? Prendiamo l'esempio di Repubblica. Qualcuno cominciò a subodorare che lì la pacchia stava finendo quando nel novembre 2004 il quotidiano si trasferì dalla storica e sciccosa sede di Piazza Indipendenza a due passi dal centro storico e dall'ombelico romano di Palazzo a quello più anonimo di via Cristoforo Colombo. E, in questa lunga inchiesta, che sulla quale non mi posso soffermare, però che viene pubblicata da Libero, si parla di cifre non affascinanti, e poi c'è tutto il discorso, dice, ufficialmente Repubblica vende, tira 765.000 copie e ha 3.069.000 lettori e vende oggi 549.000 copie, ma insomma poi dice le copie vendute, c'è sempre qualche magia attorno ai numeri di cui non si sa bene il tutto. Questo il quotidiano Libero attorno alla Repubblica, è una delle inchieste, aspetteremo le altre inchieste sugli altri quotidiani italiani. Ora il quotidiano Il Messaggero invece, che pubblica tutte le notizie più importanti del giorno, volevo segnalare per un'iniziativa che ha preso e che oggi trova la firma di Roberto Napoletano, il suo direttore. Dillo al Messaggero. C'è un Napoletano, pubblica una lettera. L'iniziativa è quella di far scrivere i lettori, di enfatizzare Il Messaggero come casella, dove si mandano le proprie proteste, queste, i propri punti di vista. Gentile direttore, con grande sorpresa e ancora più grande piacere, domenica scorsa, aprendo il nostro giornale, ho trovato l'articolo che avevo suggerito. È stata un'emozione che non avevo mai provato prima. Non le nascondo che da domenica vado in giro portandomi in borsa la pagina e la faccio vedere a tutti gli amici. Patrizia Moretti ci aveva scritto per segnalare un problema di mobilità, uno dei tanti che da sempre mettono quotidianamente a dura prova il diritto a vivere dei romani. Quello che la signora Moretti non sa è che la sua lettera, ho voluto incorniciarla, è esposta sulla parete alla sinistra della mia scrivania, tra le cose care, un disegno di mio figlio, la foto di un gabbiano, ricordi, eccetera, eccetera. Insomma, questa è l'iniziativa di cui va molto fiero Roberto Napoletano con il suo messaggero. Il titolo è, abbiamo trascurato questo argomento su altri giornali, l'Alitalia ceduta a CAI, slitta la scelta però del partner, le imprese dell'indotto chiedono aiuto, il governo ha dato il via libera alla cessione di Alitalia a CAI per 1,52 miliardi. Intanto proseguono le trattative per scegliere l'alleato tra Lufthansa e Air France. E questo il messaggero. E poi c'è il caso canzoni antisemite, vergogna su internet. Rapidamente l'unità disobbedienti locali, sciopero dei bilanci, l'associazione dei comuni invita i sindaci a non presentare il documento contabile, dopo i tagli impossibile governare le città, e sono le pagine 4 o 5 che si dedicano a questa cosa, la rivolta dei comuni 2009 senza bilanci, clamorosa protesta, dopo i tagli diventa impossibile presentare un documento credibile, il caso ICI, il risultato dell'abolizione della tassa per che è il ridimensionamento dei servizi. Io leghista dico, Massimo Giordano, sindaco di Novara, questo non è federalismo, e quindi insomma si apre una crepa sul tema del federalismo e tra anche le amministrazioni diciamo non contro questo governo. E anche il manifesto mal d'auto, c'è un bellissimo disegno di un'auto americana d'epoca, di una grande auto, e mercati, borse, bilanci, occupazione, tutto ruota attorno all'industria dell'auto in grave crisi, Marchionne chiede aiuti di Stato per tutti o per nessuno, l'Unione Europea si prepara a concederli purché temporanei e mirati al miglioramento delle tecnologie utili all'ambiente, i costruttori di Detroit si appellano al congresso USA e ai repubblicani contrari al salvataggio. Questo si legge sul manifesto in prima pagina, e poi ancora Vauro il vignettista, beccato, e qui c'è una ironia sulla torre, e l'esponente del PD che ha mandato il pizzino a Bocchino, la torre mi consegni immediatamente quel bigliettino, la 7 in condotta. Questo Vauro sul manifesto, e con questa segnalazione io vi saluto e vi do appuntamento a domattina.